rimane in diplomazia. E che diamine, che problema c'è? Ha avuto una sospensione di 3 mesi, sospensione dello stipendio, ma la Farnesina ha ritenuto questo sufficiente. Rimane lì, nessuno lo tocchi, rimane in diplomazia. Vattani, il console Fascio Rock. 24 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22. Allora, vogliamo andare a capire come stanno i terremotati, com'è la situazione in Emilia-Romagna, soprattutto la regione più colpita. Saluto Matteo Richetti, che ritrovo con piacere, presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Buongiorno Richetti. Buongiorno Milan, ben ritrovati. Allora, 50 milioni di euro stanziati, l'esenzione almeno dal pagare l'IMU, vi basta per il momento quello che ha stanziato e che ha deciso il governo? Beh, non sarà sufficiente, però non possiamo nemmeno dire che il governo non abbia mostrato prontezza e attenzione. Insomma, io non penso nemmeno che sia secondario il fatto che il presidente Monti, rientrato anzitempo, sia immediatamente venuto sui luoghi del disastro. È evidente, adesso l'obiettivo di questa chiacchierata non è sparare cifre, ma fare un ragionamento compiuto su ciò che occorre e ciò che bisogna fare, però siamo di fronte ad un danno, Milan, enorme sia in termini di edifici distrutti, enorme in termini di rischio, c'è un rischio enorme, cioè che questa sia la goccia che fa traboccare nel vaso della crisi moltissime aziende e moltissimi posti di lavoro. Stiamo parlando di 5.000 posti di lavoro che stanno ballando in questo momento, e quindi è evidente che c'è un tema legato ad un fondo per la ricostruzione, ma c'è un tema legato a provvedimenti solidi e importanti che consentono alle imprese, una volta ricostruite, di ripartire, e nell'immediato, in questi giorni, in queste settimane, i lavoratori che vanno davanti alle imprese non possono ovviamente entrare, sì. Strumenti di ammortizzazione sociale immediata. Cioè, per esempio, gli stipendi dovrebbero essere pagati come ammortizzatori sociali dal governo, per esempio. Diciamo che quegli strumenti che abbiamo utilizzato in deroga per quelle aziende che non li avevano, sotto i 15 dipendenti, piccole aziende artigiane, oggi vanno a proposte per le aziende che si trovano in queste zone terremotate. Perché è evidente che nell'immediato non saranno in grado, seppure proveranno a garantire nel minor tempo possibile la ripresa delle attività, un posto di lavoro e di conseguenza uno stipendio, e noi lì dobbiamo dare una risposta. Senta, sono arrivati anche dei fischi a Monti, non so se tanti, quanti, pochi, ma sono condivisibili in parte? Si può non condividere la rabbia e la disperazione di chi rischia di aver perso tutto? È evidente che, mentre dico e sottolineo che non solo la presenza del presidente Monti, ma la prontezza con cui il governo c'è stato, ma mi faccia dire, Milan, il modo in cui il presidente Errani, gli amministratori locali, a me ha molto colpito che nei primi 2 giorni non si sia vista una foto sui giornali di un sindaco, di un amministratore, perché erano là in mezzo a questa devastazione totale, sul pezzo, come non si poteva nemmeno immaginare. E quindi è evidente che certo c'è quella rabbia, certo c'è però, insomma, il tentativo e la prontezza di una risposta. E penso anche che quei fischi, quella rabbia, e adesso cosa volete, l'IMU sulle case distrutte, è evidente che rappresentano la paura di chi potrebbe non essere supportato adeguatamente. E qui ci sta, secondo me, la fermezza e la prontezza di una nostra risposta, cioè non solo ci saremo, non solo ci sarà un fondo, ma ogni istituzione, piccola e grande, deve in questo momento fare un atto concreto, un gesto concreto, non basta la valutazione. Tante volte ci siamo trovati nella sua trasmissione a discutere di riduzione dei costi della politica. Sì. Io ieri ho parlato con il presidente Errani, con il mio ufficio di presidenza, siamo tutti dell'orientamento che, poiché questo anno di lavoro di riduzione dei costi qualcosa lo avrà prodotto, no? Stiamo ragionando di qualche milione di euro di riduzione. Vada immediatamente, io spero già nella giornata di oggi, destinato in questo senso. Ah, quindi i tagli fatti ai costi della politica in Emilia-Romagna che possono essere destinati ai terremoti. Stiamo parlando di risorse che non sono risolutive, ma sono importanti. Quanto sono? Cioè, ci sono cifre già che si ipotizzano? Nei 12 mesi andiamo a registrare un risparmio di 2 milioni di euro, che vorrebbe dire per la sola assemblea regionale un contributo decisamente importante, cioè siamo oltre la logica di una percentuale dell'indennità, dello stipendio. Quindi è evidente che questa cosa può essere il fatto che ce lo siamo detti tante volte, i costi della politica non sono solo un fatto simbolico, ma che possono produrre risorse, sì, concrete. Questo sarebbe un segnale. 2 milioni di euro, questi, sì, sarebbero noi stiamo ragionando di questo importo, ma io devo dire che in queste ore, dove io sto provando grazie alla presenza H24 del presidente Errani sui posti al centro di Marzaglia. Posso utilizzare questa trasmissione per dare un'indicazione puntuale: tutti gli aiuti, le disponibilità, le persone che vogliono lavorare, che si recano là, fate riferimento al centro protezione civile di Marzaglia 059 200 200, perché noi stiamo raccogliendo tante disponibilità di un paese che sta reagendo, e anche tante istituzioni, presidenti degli altri consigli regionali che mi chiamano, sottoscrizioni. Sì. Abbiamo aperto un centro di raccolta unico, anche economico, che trovate sul portale regione.emilia-romagna.it, che consente di far confluire tutto. Ce lo siamo detti tante volte, certo. Anche questa volta, la prima volta, le istituzioni facciano per prime la loro parte. C'è il tema, poi questo, sul quale vorrei concludere, dell'accisa sulla benzina, perché guardi che è un tema molto molto sentito dagli italiani, come puoi immaginare. Il governo Monti ha detto per ora non si tocca l'accisa sulla benzina, rischiamo di dover pagare nuove tasse, questa è la soluzione per... Sarebbe sbagliato, lo dico con grande chiarezza. Il presidente Errani ha già detto che non ci sarà, anche laddove il governo decidesse comunque, un'ipotesi di accise regionali, però non si regionalizza la solidarietà. Anche perché già è stato colpito e poi deve fare la benzina nella regione e pagarla di più. Le comunità che stanno facendo lo sforzo frutto del disastro sono chiamate. E un altro tema fondamentale, me lo faccia dire, il patto di stabilità dei comuni va allentato, bisogna mettere nelle condizioni nei prossimi giorni i comuni di poter liberare tutte le risorse, gli investimenti, accompagnare le imprese. Ma questa volontà c'è, mi pare che questa volontà c'è, mi pare che al di là dei 50 milioni che sono un primo segnale importante, il presidente Monti prefigura un provvedimento complessivo che contempla le cose che ci stiamo dicendo. È importante che si concretizzi per accompagnare questo elemento di ricostruzione fondamentale. Mi faccia fare una battuta che non c'entra nulla, ma di politica, visto che Grillo dice che Bersani è uno zombie, ce l'ha anche con Renzi, lei è un renziano, è uno dei rottamatori, anche per lei Bersani è un po' un mezzo zombie? Io penso che queste ore stanno dimostrando che molte volte si liquida chi è già impegnato, chi fa l'amministratore, chi è sulla scena da 20 anni. Beh, qui si sta dando una dimostrazione di tale serietà che ci porta anche a riconsiderare dove dobbiamo attingere per la prossima classe dirigente del paese: sindaci, amministratori, giovani assessori. Insomma, qui mi pare anche che in questo clima, devo dire, Milan mi prende in giornate difficili, perché Brindisi, il terremoto, la perdita di un collega importante che abbiamo perso in consiglio regionale. Siamo tutti a dura prova, nessuno ha voglia di sentir parlare di zombie, di morte, di cadaveri, per cui forse sarebbe anche il caso che, al di là della legittima proposta politica, tra di noi si utilizzasse una terminologia diversa. Cambia il linguaggio. Intanto la ringrazio, Matteo Richetti, lo ricordo io, 059 200 200, e questo è un numero, grazie, sono appuntato della protezione civile, a cui fare riferimento per quel che riguarda la regione Emilia Romagna. Grazie per essere stato con noi. Matteo Richetti è il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, del Partito Democratico. E noi, dopo la pubblicità del meteo, andremo a capire cosa sta succedendo in questo processo a Milano contro le presunte nuove Brigate Rosse, dove alcuni avvocati, l'ultima è stata una donna, avvocato, ha rinunciato al mandato perché si è sentita minacciata era l'avvocato d'ufficio, dagli imputati che le hanno detto: tu non devi rappresentarci, perché noi non riconosciamo questo Stato borghese. Parole che sembrano risuonare dagli anni di piombo, ma che sono ancora attuali nel 2012. Ne parliamo tra poco. 24 mattino. Allora, a Milano c'è il processo contro le presunte nuove Brigate Rosse, e anche ieri gli imputati, come racconta oggi sul Corriere della Sera Luigi Ferrarella, hanno detto: ripetiamo, non accettiamo di essere difesi con le regole di uno Stato borghese che vogliamo sovvertire. Sta succedendo che diversi imputati ricusano i propri avvocati, vicende che ricordano i tempi più bui degli anni di piombo, degli anni 70, in cui gli imputati delle Brigate Rosse rifiutavano di essere difesi dagli avvocati. Allora ci furono anche avvocati che, come il presidente dell'Ordine di Torino, che prese d'incarico l'ufficio e fu ucciso per questo dalle Brigate Rosse. Due giorni fa una giovane avvocatessa ha scritto per nominata d'ufficio del cosiddetto ideologo delle nuove Brigate Rosse d'Avanzo, ha detto: io non posso accettare, rifiuto per l'incolumità fisica, per la paura. Allora, che sta succedendo? Ne vogliamo parlare con Paolo Colonnello, che è il cronista giudiziario della Stampa. In questi giorni è spostato sul terremoto, ma segue questa vicenda anche da lì. Paolo Colonnello, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Saluto anche l'avvocato Sandro Clementi, che difende due degli imputati, sono Massimiliano Gaeta e Bruno Ghirardi. Buongiorno, avvocato Clementi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, ciao Paolo. Io vorrei far sentire intanto l'intervista che ho realizzato poco fa con il senatore Pietro Ichino del Partito Democratico. Il senatore Ichino, queste presunte nuove Brigate Rosse sono accusate anche nel processo di avere attentato, insomma di avere progettato, di avere nella propria ideologia quella di colpire il senatore Ichino. Ho chiesto al senatore Ichino intanto cosa ne pensa e cosa direbbe a quella giovane avvocatessa che ha deciso di rifiutare l'incarico per paura. Mi verrebbe in mente di dirle che i nostri padri e i nostri nonni hanno dovuto rischiare la vita in guerre che forse meritavano meno di questa di essere combattute. A noi è stato risparmiato di rischiare la vita sul Carso o nelle steppe russe, credo che dobbiamo essere un po' meno avari nello spenderci su questo fronte, perché questa è una battaglia che invece merita per intero di essere combattuta. La mancanza di coraggio è un qualcosa da biasimare, secondo lei? Manzoni diceva che il coraggio uno non se lo può dare, e io comunque penso che non si debba giudicare nessuno, le situazioni personali sono molto diverse, però quando un avvocato si iscrive all'albo delle difese d'ufficio, ma io dico anche di più, quando un avvocato sceglie questa professione, sceglie una professione che può anche comportare di correre qualche rischio, di dover assumere una responsabilità pubblica. Credo che questo sia inevitabile e faccia parte della professionalità dell'avvocato anche mettere in conto queste situazioni e sapervi fare fronte con la serenità necessaria. D'altra parte, in questo processo gli avvocati dei imputati, i nuovi brigatisti, hanno scelto una linea che è quella di dire che è tutta una montatura, che in realtà queste persone, al di là del folklore, non hanno mai minacciato nessuno. C'è un po' una tendenza a sminuire la pericolosità di queste persone. Direi che il rinunciare alla difesa per paura di ritorsione da parte di queste stesse persone costituisca una delle più gravi accuse che in questo modo questa avvocatessa muove agli imputati. Che effetto le fa ancora nel 2012 sapere di essere il bersaglio per le proprie idee? Volevano colpire in lei la linea del riformismo, questa è la tesi del procuratore generale. È il segnale del fatto che questa malattia non è ancora del tutto guarita, che esiste ancora un focolaio, per fortuna piccolo, isolato, non preoccupante sul piano dimensionale, ma l'infezione è ancora viva. Questo è molto impressionante, effettivamente. Non preoccupante, per fortuna, ma è impressionante. Allora, questo ci ha detto il senatore Ichino. Avvocato Clementi, ha detto il senatore Ichino, la linea vostra, la linea degli avvocati è di dire ma è tutta un'esagerazione, non si voleva davvero progettare un attentato o colpire. Però allora perché questa avvocatessa e altri avvocati, insomma, temono per la loro incolumità e rinunciano ai mandati d'ufficio? Parto dalla sua ultima domanda. Il problema ma del timore rappresentato dalla collega, che io non giudico, non entro nel merito, ovviamente è un problema della collega, nel senso che il professor Ichino ha rappresentato un suo punto di vista sulla condotta della collega, che io, ripeto, non voglio giudicare né da un punto di vista professionale né personale, però è un problema e rimane un problema, è una percezione soggettiva di una professionista che si è sentita minacciata, ma che, come abbiamo avuto modo di vedere anche ieri in udienza, su domande di vostri colleghi, non vi è stata nessuna minaccia nei confronti del difensore d'ufficio. Però le urla a dire rinunciate, non vogliamo essere rappresentati contro questo stato borghese, ci sono, c'è questo tipo di linguaggi? C'è questo tipo di linguaggio, però come lei dice è un linguaggio. Adesso, se noi non vogliamo giungere ad affermare che addirittura le espressioni di opinioni, per quanto ostili verbalmente, siano di per sé minacce gravi all'incolumità fisica, mi pare che non sia un'esagerazione e si crei un allarme che in verità non c'è. Sotto altro profilo, proprio quello che diceva il professor Ichino, cioè i difensori hanno scelto la linea di in qualche modo sminuire la portata degli eventi, ma io ricordo ancora una volta a tutti, oltre che al professor Ichino, che peraltro in parte, almeno in primo grado, ha assistito come testimone parte civile nel procedimento, che non è che la linea difensiva degli avvocati difensori, gli atti di indagine, l'istruttoria dibattimentale, lo ripetevamo proprio ieri per la quarta volta, visto che siamo all'appello bis, che non vi sono riscontri di nessun genere rispetto alla operatività o all'intento omicidiario da parte di questo gruppo di persone. Tanto meno nei confronti del professor Ichino, cioè, quindi non è una simpatica o artefatta. Lei dice corroborata dai fatti giudiziari. Però questo poi si vedrà, diciamo, di fronte a un giudice che giudicherà. Mi lasci però chiedere. No, ma si è già visto, perché scusi, mi lasci finire. La Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza, non è un caso che abbia annullato l'ammissione di parte civile del professor Ichino. Lo ha fatto perché non nota la Corte di Cassazione nessun elemento che confermi una minaccia nei confronti del professor Ichino. Però, insomma, c'è un riscontro giudiziario della massima corte. Giusto per correttezza giudiziaria, poi la corte, cioè l'accusa ha chiesto la conferma dei 150 anni totali, insomma, di questo per quel che riguarda le pene. Ma poi, ripeto, non è questa la sede per fare il processo. Vorrei dare le informazioni sul traffico, poi vado subito da Paolo Colonnello per cercare di capire il tema che dice il senatore Ichino, ha usato questa parola, folklore, cioè vengono dipinti come queste nuove presunte brigate rosse, come un folklore. È davvero così? È una minaccia concreta? Tra poco ripartiremo da qui. Allora, con Paolo Colonnello, cronista di giudiziaria della Stampa. Paolo, io devo dire per correttezza che noi abbiamo contattato anche l'avvocato, la donna che ha rinunciato al mandato e ha detto no, per carità, non voglio parlare, non mi sento di dire nulla. Abbiamo chiamato anche l'avvocato che è subentrato d'ufficio e che ieri mattina ci ha detto sì, va bene, intervengo. Dopo due ore ha detto no, non intervengo più, non posso dire niente, non parlo. Allora, qual è il clima in questo processo che si respira, Colonnello? Tanto per rimanere in clima manzoniano, potremmo dire che uno il coraggio non se lo può dare, no? Io adesso, ieri non ero ovviamente a quest'ultima udienza, ero in quella precedente dove ci sono state un po' di grida. In realtà ho avuto l'impressione, ma è una sensazione molto personale, che ci fosse quasi una recita un po' giurassica di tempi passati e ben più pericolosi. Volevo fare solo una precisazione circa quanto diceva l'avvocato Clemente, cioè che la Cassazione non entra nel merito dei processi, né verifica, diciamo, le formalità, i formalismi. In questo caso ha annullato il dibattimento precedente d'appello, la sentenza di prima, trovando un difetto di motivazione, cioè non dicendo che non era chiarissimo dai fatti emersi che questi fossero o non fossero terroristi, ha detto non avete motivato sufficientemente la loro appartenenza al terrorismo, e quindi bisogna rifare il processo e poi vedere se viene fuori una motivazione più convincente. Quindi tra motivazione e fatti, diciamo così, c'è una differenza sostanziale, sì, notevole, che staremo appunto a vedere poi con la sentenza. Però vorrei capire anche questa cosa da entrambi: cosa vuol dire, avvocato Clementi, dire non c'erano progetti concreti ma solo suggestioni, idee? Cioè anche avere una suggestione di colpire una persona non è un qualcosa che sì, certo, da biasimare, oltre che essere un reato, oltre che magari istigare qualcun altro a farlo magari. Sì, no, ma infatti, allora, il concetto è proprio questo, cioè si sono scambiate delle considerazioni che per lo più nelle intercettazioni, sia ambientali che telefoniche, se ne trae chiaramente l'evidenza, delle considerazioni di carattere politico con una progettualità che è inesistente. Non vi era nessun progetto, e con questo intendo dire che non c'era nessuna volontà di realizzare delle azioni armate che avessero come obiettivo persone. Ma che ne so, dire per esempio vorrei che quella persona venisse fatta fuori, magari così, pur parler, ma voglio dire, è una cosa molto grave di per sé. Beh, è un fatto grave finché si vuole, dico, ma che può trovare un giudizio morale o etico, ma non può trovare certo un giudizio di carattere giuridico, cioè non ha rilievo penale. Adesso i desideri e le intime aspettative personali, ancorché giustificate da ragioni ideologiche, non possono essere oggetto di sanzioni o di reprimenda penale, quindi siamo nell'ambito del non punibile. Mi lasci sentire un ascoltatore che ci ha chiamato all'800240024, Edoardo da Milano, buongiorno. Buongiorno. No, volevo soltanto intervenire sulle parole di Chino, che mi sono sembrate un po', cioè, giuste da un certo punto di vista, ma però facile dirle con la scorta alle spalle. Insomma, sta ragazza viene buttata in un'arena di terroristi dentro in un processo, mi sembra capibile, poverina, anche dire no, non me la sento dopo le minacce, eccetera. Ma scusi, eccetera. Perché a parte che Ichino ha la scorta perché evidentemente è seriamente motivata, Edoardo, ma poi non è che una ragazza viene buttata, se uno si iscrive nelle liste di avvocati d'ufficio funziona che se uno viene chiamato è obbligato, ha l'obbligatorietà di diventare, bene, di prendere l'incarico, di assumere l'incarico. Le parole di Ichino che diceva quando una viene buttata in un'arena e si iscrive all'albo dei difensori d'ufficio, eccetera, eccetera, e si sente obbligato, mi vengono in mente i medici obiettori di coscienza che anche loro firmano qualcosa eppure si rifiutano ad operare. È una cosa diversa, appunto, cioè è prevista l'obiezione di coscienza per quel che riguarda i medici, è un paragone un po' azzardato. Comunque io capisco, Edoardo, non so, Paolo Colonnello, le parole di Chino, anche dell'ascoltatore che dice facile parlare quando si ha la scorta alle spalle, però insomma poi quando un avvocato viene chiamato in una situazione in cui magari sopravvaluta una minaccia, però insomma sono considerazioni personali che uno può fare, è facile parlare da qui. Ma se, bisogna fare un attimo di chiarezza, perché qua sembra che si stia facendo per esempio un processo a delle definizioni, no? È terrorismo invece che eversione, ma questi non hanno fatto nulla. Allora, prima di un processo, adesso mi spiace perché poi come al solito noi cronisti giudiziari ci fanno fare la parte dei PM, non è il nostro mestiere, però bisogna essere, bisogna, diciamo così, conoscere tutti i termini della questione e diciamo il nostro mestiere è quello anche di testimoniare queste cose. Allora, prima di un processo c'è un'inchiesta. Se si arriva a un processo è perché i risultati di questa inchiesta sono considerati meritevoli di attenzione. Questa inchiesta che cosa ha rivelato? Che esisteva un'organizzazione di alcuni personaggi che da Torino, Milano fino a Verona avevano in mente di organizzare degli attentati. Compiono anche, se non sbaglio, adesso perché purtroppo di inchieste io ne devo seguire tantissime, però se non sbaglio, compiono una rapina a un banco, incendiano una sede di Forza Nuova piuttosto di Forza Italia e addirittura si preparano per un attentato al quotidiano Libero, fanno dei pedinamenti, usano una telecamerina. Cioè no, anche perché non ci sarebbe stata la condanna in primo grado. Hanno persino delle armi. Allora, voglio dire, non credo che fossero degli zuzzerelloni, no, che giocassero a fare la rivoluzione per poi alla fine limitarsi a un proclama. E questa era gente che aveva deciso, secondo me in maniera totalmente sbagliata, di portare avanti le proprie rivendicazioni, di fare una rivoluzione, di fare dei gesti eversivi che poi diventano terroristici, perché tu nel momento in cui ti armi e magari prepari un attentato accetti anche il rischio che muoia pure qualche altro innocente, e quindi in questo senso diventa terrorismo. Avevano quindi deciso di fare delle cose non propriamente, diciamo così, civili. Il processo di primo e di secondo grado ha stabilito che le cose stavano effettivamente così. Poi c'è stato un difetto di motivazione, la Cassazione ha detto ai giudici: dovete spiegare meglio perché voi li avete condannati. E c'è l'appello bis, e siamo a questo punto. Dopodiché si apre questo processo e questi signori in aula a una domanda fatta da noi giornalisti sull'attentato, era stato una settimana prima l'attentato di Genova, urlano: sì, va bene, è la rivoluzione. È vero che in realtà loro non rivendicano affatto questo attentato, è vero che anche ieri in aula hanno detto: noi non andiamo a sparare ai bambini, a Brindisi, a Brindisi, riferire. È vero quindi che sono, diciamo così, anche diversi. Io ho fatto in tempo a seguire la coda dei processi di terrorismo degli anni Ottanta, che erano, diciamo, a quelli di Prima Linea, Brigate Rosse, eccetera. Gente di tutt'altro spessore. Però sì, però è vero che il clima è quello di tensione e che si respira. Mi devo fermare. Ringrazio Paolo Colonnello della Stampa, l'avvocato Sandro Clementi, e vi do l'appuntamento a domattina alle 7:20. 24 mattino.